All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Applauso. È stata una settimana entusiasmante per varie novità che hanno comportato la vita all'House, e ne parleremo tra poco, ma adesso subito una pausa musicale. Kavanaugh con Look For Me. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Adesso passiamo a presentare entusiasmo, perché andiamo a presentare un ospite musicale di questa settimana, un regino che è partito verso il nord armato solo di chitarra e armonica ed è in collegamento da Torino. Un saluto a Fabrizio Canale. Salve. Ciao. Ce l'abbiamo fatta, Fabrizio. Iniziaci a raccontare brevemente di te, chi sei e la musica che proponi. Raccontacela un po', così iniziamo a conoscerti. Bene, bene. Allora, chiaramente l'hai già detto tu, ma ve lo dico. Sono un vostro conterraneo, che quindi è salito un po' per il nord a cercare fortuna. E io ho sempre suonato blues, quindi... Certo, nel contesto. Anche... È una famiglia di musicisti e di artisti, quindi ho cominciato da piccolo con l'armonica, poi al basso, la chitarra e alla fine ora quello che faccio e fare quando in band, cioè praticamente da solo cercare di regalare agli astanti uno spettacolo divertente e coinvolgente. One Man Band Blues Show. Fantastico, prima di continuare diamo subito un riferimento internet a chi vuole sapere un po' di più di te, della tua musica, che sito possiamo consigliare? Dici, sito? Allora, sì, trovate un riferimento su www.reverbnation.com/Fabrizio Canale. È un sito un po' come MySpace, però è un po' più dedicato alla musica. Okay. E poi per chi vuole seguire comunque, per chi vuole seguire gli spettacoli o le novità, tutto quanto, ci sono le pagine Facebook a mio nome e di YouTube. Sempre per Fabrizio Canale trovate più o meno tutto. Perfetto. Tu, oltre agli spettacoli da palcoscenico, ti sei fatto anche questa gavetta, che poi è un po' strana nell'era dei talent, da artista di strada. Nel tuo rapporto con i passanti trovi la sensibilità di ascoltare la musica, e che bilancio comunque daresti di questa esperienza? Ma è sicuramente positiva e ti insegna tanto, in realtà, questo bisogna dirlo. E comunque sì, la gente gradisce soprattutto, secondo me, perché è uno spettacolo alla fine un po' che è una sorpresa. Uno passeggia per strada e si ritrova il musicista, l'artista di strada, che sia, che magari fa lo spettacolo teatrale, musicale, e quindi se si diverte tende a ricompensarlo con un'offerta qualsiasi. Poi nel caso della musica può comprare anche il disco e tutto il resto. Però devo dire che in realtà è un lavoro un po' diverso da quello del musicista. C'è da dire che non ci sono determinati filtri per i quali, per esempio, chi va a vedere l'artista sul palco si aspetta un musicista, quindi si aspetta di battere le mani, eccetera, eccetera. La pista di strada deve magari anche saperti coinvolgere e catturare meglio, perché chiaro, tu sei un passante. Chiaro, chiaro. E quindi c'è un contatto più diretto e più... Assolutamente. Adesso invece... La musica è fatta di... Quindi, insomma, il contatto con la gente è importante, qui lo sviluppi al massimo. Fantastico, è bella anche questa immagine di sto ragazzo. Adesso stai preparando un album, fai questo passo in avanti, diciamo, nel tuo percorso artistico. Stai utilizzando, esatto, il sistema del crowdfunding, esatto, per trovare i soldi per autofinanziarti l'album. Proprio così. Che riscontro hai avuto dal sistema del crowdfunding? E se vuoi parlare un po' dell'album, dici cosa stai combinando. Certamente. Allora, io in realtà la prima impresa discografica è stata piuttosto casalinga, avventurosa, cioè ho registrato tutto a casa da solo, e quindi ho fatto un primo prodotto che però poi bisognava di un upgrade, ecco. Quindi per fare un disco ben riuscito ci vogliono comunque dei fondi, ci vuole lo studio di registrazione e tutto quanto, fondi che non sarei riuscito a raccogliere in tempi utili probabilmente. Quindi questo nuovo disco, che si chiamerà Someday Happens, richiederà anche dei suoni diversi, comunque più rock, più soul, anche quindi con una cassa audio migliore, una stampa migliore, e comunque c'è bisogno di un prodotto migliore per andare un po' avanti, cercare nuove strade. Mm-hmm. Il crowdfunding è interessante perché ti mette in contatto con tutta la tua con tutto il tuo seguito, con tutto il tuo seguito di persone che alla fine da sempre ti seguono, ti supportano, e questa volta hanno l'occasione di farlo concretamente, anche con poco. Quindi una volta poi raggiunta questa somma si può partire con il lavoro. Uh-huh. E la cosa bella, in effetti, quello che mi ha convinto è che tu per ogni donazione che effettui ricevi una ricompensa. Per esempio, ho appena finito, cioè ci sono ricompense di tutti i tipi, come per esempio le lezioni, oppure un concerto privato a casa, o il disco in download digitale personalizzato. Ecco, e comunque e tante altre di queste cose, quindi non è neanche tanto beneficenza, ma è quasi un dare avere, però con tanto buon karma di mezzo, ecco. Mettiamolo così. Certo, poi la tua storia è fatta anche una storia di emigrazione che adesso è comune a molti giovani reggini. Il tuo impatto col nord, com'è stato, se c'è stato un episodio particolare nella tua esperienza, bisogna essere nella zona di Torino, quindi torinese o... Sì. Guarda, probabilmente qualche figura da provincia Lotto l'avrà fatta, però non saprei dirti poi con precisione, non mi ricordo. Però ricordo che quando sono partito ero proprio il classico calabrese, no? Sai, quella valigia di cartone, quella di Manduia nella valigia d'Italia. Assolutamente. E quindi comunque sono partito carico come un mulo, avevo il contrabbasso, la chitarra, l'amplificatore, una cosa assurda. E quindi poi era piuttosto interessante vedermi arrivare su queste strade di Torino, che nuovo. No, però mi sono comunque subito trovato bene, c'è stato subito un cambio, perché comunque sono passato dallo stare in casa, in famiglia, con la pasta pronta, cioè, a quel punto però, arrivato in terra straniera, diciamo, ora mi devo dare da fare, devo fare, cercare di fare un po' di cose. Okay. E insomma, l'arte di strada, l'insegnamento, le serate locali, anche il one in band, non spero un po' per questo. Mm-hmm. Per mettersi in gioco, ovviamente. E quindi alla fine hai trovato una tua però dimensione. Stato... Sì, sì, però è stata una cosa che alla fine ho desiderato, quindi magari non è stato così traumatico, come impatto, certo. Rispetto a tanti altri. Mi dispiace quelli che magari lo devono fare però per necessità, proprio, quindi quello è una cosa anche diversa. Chiaro. Una domanda che faccio a tutti comunque i ragazzi che sono emigrati e fanno interventi di trasmissione. Cos'è la cosa che proporresti alla nuova gestione della città e secondo te da dove si dovrebbero iniziare a sistemare le cose? Io posso parlare sicuramente per quello che faccio, per quello in cui credo, quindi partirei da una rivoluzione artistica della città. Ma anche piccole cose, per esempio anche il fatto che non esista un regolamento dell'arte di strada lì è una cosa assurda e inaccettabile per una città che si propone di essere metropolitana. Non ci vuole niente alla fine, non ci vuole neanche soldi da spendere, basta che dare la possibilità a giovani artisti di esprimersi sul corso, sulla linea marina, sui luoghi di interesse, e un mettersi in gioco che a molti manca, credo. Chiaro. Per esempio. E quindi partire da queste piccole cose. Mi è incuriosito nella tua presentazione il fatto che dici che fai anche lezioni di busking, quindi proporre l'arte in strada. Quali sono i fattori secondo te per un buon busking? Visti la mia situazione attuale, cosa mi consiglieresti nel caso vorresti intraprendere questa attività di artista di strada? Beh, allora intanto dobbiamo partire su tu che cosa sai fare, ecco. Cioè che cosa devi trovare un po'. Facciamo la cena dei possiamo fare la cena dei regini, il programma radiofonico in strada, la bancarella dei regini. Questo non è una buona idea. Me l'approvi già. In realtà questa è una cosa che già avevo pensato, quindi riprendermi già sì, perché avevo già pensato come l'ombrellone, magari una che spillava le birre, quella che ti faceva la cosa, e facevo il locale in strada, ecco. No, allora tu devi semplicemente capire un po' quello che sai fare, quello che vuoi comunicare e come li puoi mettere in gioco. A quel punto trova il modo di farlo al meglio e credi in quello che stai facendo. Io certo. appena sono sceso in strada la prima volta pensavo che avevo 20 anni, sei un grande musicista che tutti sarebbero stravedute, ma in realtà non è stato così, perché è stata proprio una cosa nuova. Certo. Devi capire già, è importante dove ti metti, è importante cosa proponi, come ti fai sentire, che rapporto hai con il pubblico, tantissime cose sono importanti, quindi sono tutte cose che si imparano però giustamente in strada, quindi con l'esperienza. Chiaro, della strada. Io sto vedendo anche opzione di collaborare con grandi artisti di strada qui a Torino, quindi che comunque sono veterani e tanti trucchi li sto imparando proprio da loro. Quindi devo stare attento a dove piazzarmi, come fare la cena e tutto il resto. Vabbè, poi ti chiamo e mi dai due consigli. Intanto ragazzi. Esatto. Ci mette di capire un po'. Giusto? Non rifacciamo più l'auto. Ragazzi, ringraziamo Fabrizio Canale che è stato alla cena in collegamento da Torino. Applausino a questo ragazzo. E ora ci ascoltiamo il pezzo che dà il nome al suo album. Someday It Happens. Esatto, Fabrizio Canale. Te l'ho detto io. E ce l'ascoltiamo. Grazie ancora. Grazie molto, ragazzi. Buona continuazione. Ciao. Please don't kill. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, www.back.it, cliccate la cena dei regini per commentare anche questa puntata, commentare le notizie scottanti che abbiamo dato durante questa puntata, ma adesso passiamo alle notizie comunque dal mondo e passiamo salutando i turisti tedeschi che sono venuti a trovarci a Reggio. Abbiamo parlato la scorsa settimana di questo volo di turisti tedeschi che venivano a Reggio, sono ripartiti. Sono contenti, felici? Non torneranno più perché il volo è stato già cancellato. Non sono manco partiti. Ti è legato a quel fatto? Non sono manco partiti. No, sono arrivati qui e poi sono ripartiti. Hanno parlato di quelle cene di lettiste che forse venivano qui in Calabria. No, quella era una bufaletta da quattro soldi. Invece questi ragazzi si hanno fatto questo volo c'è stato, è ripartito, sono stati qua una settimana. Il problema è che non hanno le prenotazioni, abbastanza prenotazioni per continuare il servizio, e quindi comunque non ci saranno altri voli dalla tedeschi, altrimenti detta Germania. Grazie, con i pochi soldi che pagavano, figurati un poco. A noi non ci resta che la Lidl. Sei contento? No. Perché? Perché se... cioè? Almeno avrebbero parlato bene dell'Italia. Se si fossero trovati bene. Infatti. È un problema di trasporti. Il nostro è un problema di trasporti. Cosa che non c'è a Tokyo. Una coppia, hanno i super treni ultra efficientissimi. Una coppia addirittura ha scelto di sposarsi su un treno. Ad alta velocità. Finanziata dalla ditta dei trasporti giapponese per promuovere anche questa linea cosiddetta Yamanote, la nuova linea che farà una tratta abbastanza importante del Giappone, hanno pagato il matrimonio a questi ragazzi e si sono sposati sul treno con la presenza dei loro familiari, ma anche dei sponsor. Hanno iniziato a sposarsi a Tokyo e poi si sono ritrovati a Yokohama. Fantastico, no? Quando hanno finito la... Avevano già pronti per il viaggio di nozze. Avevano già finito il viaggio di nozze perché avevano fatto già 3.000 km. E c'è questa immagine bellissima di loro che vengono applaudite da amici e via dicendo nella locomotiva del... dentro la locomotiva. Ed era un treno normale o uno di quelli solo per le donne? No, era un treno normalissimo. Ma erano vestiti di bianco lei o no? Vedi, io da uomo non ho notato questo. Sì, era un vestito classico. È un matrimonio tradizionale oppure occidentale? Vabbè, vi do l'email e poi iscrivete a questi ragazzi. C'erano gli alberi sul treno? No, ancora no. E niente fa, ancora mi dispiace. Ma ragazzi, le cose, gli incontri che non ti aspetti sono come quelli dell'artista Banksy. Banksy è un artista moderno, pop, praticamente fa con delle specie di calcomanie con gli spray. È andato a New York, ha aperto una bancarella in maniera del tutto anonima, ha iniziato a vendere quadri del valore di circa 120.000 euro, una cosa del genere, cioè un suo quadro, a $60. Senza specificare ovviamente chi è, chi non è, eccetera, ha semplicemente messo la bancarella con questi suoi quadri e l'ha messa in vendita a $60. Da 120.000 euro? E lui li vendeva a $60. Come 400.000 euro. Un artista. Cioè pazzo, scatenato? No, perché comunque il discorso è che voleva fare vedere, cioè come dire, mostrare il discorso che l'arte, l'arte presentata in una certa maniera, comunque se non è valorizzata non fruisce il riscontro che merita. Cioè uno in casa c'ha una roba da 200.000 euro e neanche lo sa? E neanche lo sa? No, perché alla fine lo scherzo lo svelavano questa cosa. Ah, era uno scherzo? Sì, certo. Ecco. Era un atto dimostrativo. Tu andai come dire, vai a comprare una macchina un Van Gogh. Antica. Ma il quadro poi lo richiedevano indietro oppure era venduto? No, era venduto. Lui ha venduto regolarmente i suoi quadri, che però hanno un valore, essendo fatti da lui particolare, invece lui li vende a $60, così come se un qualsiasi... Dovevo andarle io a fare come un qualsiasi artista di strada. Dovevo scoprire dove. Ma la cosa bella è che non solo è stato abbastanza bistrattato dalla comunità newyorkese, addirittura c'è gente che ha chiesto uno sconto del 50% sui $60. E poi un tizio, una signora. Naturalmente perché non sapevano chi era, naturalmente. No, ovviamente no. Una signora nozzeradusa ha chiesto questo sconto del 50%. Un ragazzo di New York ha detto: ne compro tre solo perché devo coprire una brutta parete. Bellissimo. Ne compro tre. C'è tre quadri da 400.000 euro. È bene che neanche te ne accorgo. Cioè uno potrebbe benissimo andare lì a vedersi da 100.000 se li comprano. Ma io mi chiedo, queste persone che. Anche questa che ha detto: li compro perché devo coprire una brutta parete. Quando scoprono che effettivamente sono quadri che valgono, che reazione hanno? Beh, mi mettono nel cavo di una banca. No, ma cioè pensare a queste persone fino a pochi minuti prima li hanno bistrattati questi quadri. Li hanno trattati proprio a peccia. Uh-huh. E poi ti dicono, questo, ogni quadro vale 200.000 euro, $200.000. Cioè, uno ci rimane, io, ma come? Cioè, io volevo. Questa è la volontà dell'artista in pratica. Sì, ma mi fa capire anche quanto questa arte, comunque, questa arte da lui non è neanche concreta. Sì, certo. Cioè, alla fine, se la gente normale neanche riesce a capire che è arte, vabbè che comunque anche gli artisti passati ne abbiamo un bel esempio, tipo Van Gogh, che fino a che non è morto, non ha avuto molto successo. Però, cioè, alla fine, le persone dovrebbero apprezzare l'arte, le persone normali, comuni. Apprezzano il nome, non il quadro. No, non lo apprezzano completamente, perché alla fine li guardano tipo. Questi qua li uso per coprire i buchi. Non è. Cioè, come se loro guardano un quadro e non vedono niente. Vedono tanto una cosa per tappare i buchi. Tappare i buchi. Perché comunque l'arte moderna è da capire, da un attimo. Ora studi per interpretare. Comunque. Tutto questa qua che ha fatto con le bombolette, giusto? Mm-hmm. Potrebbe essere vista come una cosa molto sbrigativa. Tu immagina quell'artista di strada, uh-huh, che con le bombolette vernicia quei barattolini di cemento armato che si mettono per bloccare le strade, no? Uh-huh. E ognuno di quelli vende 10.000 euro più o meno, quel prezzo. Tu immagina uno di questi barattolini verniciato per bene per strada che viene venduto a 10 euro. Uno non gliene frega niente, dice: ma che cavolo ci faccio con quello? Non me lo posso manco mettere nel giardino. Non lo userebbero neanche. Cioè, è una cosa tipo così. A me mi sembra, un po', perché si vede anche da lì che la gente è disposta a pagare tanto per un nome, ma per l'opera d'arte in sé. No, perché comunque hanno chiesto perché loro pagherebbero tanti soldi proprio perché quel quadro è di una persona famosa. Se invece lo stesso quadro fatto da una persona qualunque non diventerai famoso, il valore di 60 euro. Quando diventerai famoso? Se sei fortunato, se la viene quella, ma mi fai lo sconto? No, quando sarò famoso venderò questo qui, il Calm and Drink Coffee, che è appartenuto a me, quindi venderò a milioni di dollari. Ma da Banksy passiamo a Lino Banksy. Chi è Lino Banksy? Assolutamente no, pur prendendo parte del nome da Banksy, il famoso artista, questo collettivo sconosciuto, perché non si sa neanche se è un artista o un collettivo, o comunque non si sa esattamente chi sia, praticamente a Londra vanno a dipingere con le bombolette l'effigie di Lino Banfi sulle pareti londinesi. Cioè, perché? Lino Banfi perché? Sulle pareti londinesi, perché? Sono diventati popolarissimi in quella che loro stessi definiscono l'arte di streda, che giustamente è pugliese. Ed è fantastico perché non ridere, non fa ridere. Non fa ridere. E questo è fa ridere. Perché tu ti trovi questo esempio dipinto. Solo Lino Banfi. Lino Banfi, in questo caso con altri conagli. Solo Lino Banfi. No. Ed è Lino Banfi. Pensa l'italiano, questa icona italiana che alla fine ha preso anche lì. Ed è diventato un fenomeno. Di massa, un fenomeno culturale, soprattutto grazie a Facebook, dove queste immagini chiaramente sono diventate molto diffuse. No. Non lo vorresti un quadro di Lino Banksy? No. Edilino Banfi. Secondo me è fantastico, perché comunque riprende proprio l'iconografia degli anni 70, e comunque lui l'ha portata in strada. Per esempio, mi piacerebbe uno dei quadri fatti con il cessetto dal lomito dello spazzacamino per terra. Ad esempio, questo è fantastico, ha fatto la crema, tipo l'immagine della boccia con la crema, prezzemolo e Pinocchio, come il famoso film, sì. Del grande. Questo è proprio fanarci di Lobanti. Ma sarà un fanatico in trasferta, perché comunque un paio di citazioni sono abbastanza di culto, quindi sicuramente uno che avrà una certa... Sarà un pugliese. Una certa dimestichezza col genere. Ragazzi, per concludere, se qualcuno vi dice che si sono spiaggiate delle balene radioattive, non credetegli, perché c'è stata questa leggenda metropolitana sparsa sul web, dove si parlava dell'effetto Fukushima, queste balene radioattive che si erano spiaggiate in giro per la Nuova Zelanda in particolare, invece era solo una bufala ben organizzata. Oh, perché se le balene radioattive volano. Anche questo. Anche un applauso. Anche perché le balene radioattive esplodono. Boom! Ma non volano. Perché? Sono le balene radioattive volante. L'ho vi, la formica atomica ve lo, la formica atomica ve lo ricordate, volava. Ghiattamene. Ma non avete capito niente. Le balene radioattive sparano ragnatele. Da dove? Sott'acqua. Se vuoi lo schio. Sott'acqua, così. Poi arriva, il bello di tirarle sott'acqua e subito dopo ci rimangono incastrate. Spider paleno. No, poi arriva il cascino di Cerca di Nemo e gli parla in balenata. Grazie, perché gli dice di navigare verso il basso. No, comunque c'è veramente un anno in cui c'è un'enorme balena volante. Era la balena Giuseppina, ma voi non ve la ricordate perché siete troppo giovani. Sì, ma tanto tempo fa. Meglio così, no, meglio così. Comunque parliamo poi. Ragazzi, adesso uno spazio musicale. Respect Your Mom in Adore. Kill me, he told me. I don't. Ragazzi, bentornati alla cena dei Regini. Siamo ancora qua in compagnia della nostra classifica settimanale. In questo caso andiamo a vedere quali sono i 21 profili che non vorresti mai avere su, come amici su Facebook o comunque sui vari social internettiani. E vediamo se riusciamo a trovarci noi tra questi. Sicuramente sì. Allora, il primo è Eugenio. Però mi raccomando, sincerità. Troviamo quello che noi diciamolo. Tanto. Sì, certo. Okay. Una volta, numero 21, quello che va matto per i meme, non pubblica altro che questi tormentoni della rete. A me non dà tanto fastidio, perché mi piacciono. Meme sono quelle immaginette che diventano carine, virali. Poi hanno cantanti. Cioè, quello... che mandano un'immaginetta con scritto sotto il messaggino. Quello che Andrea sul... Claudio. Troppo. Claudio. Tipo il no, a me piace quella del vecchio Willy Wonka che fa il sarcasmo. Quindi tu... Geniale. Quindi tu partecipi alla cena dei Regini. Dov'è il tuo cibo? Oh, non ho portato niente. Bravo. Santo cielo, alla numero 20, il gruppi. Mette like e commenti ai tuoi status nello stesso istante in cui li pubblichi. Conosco una persona che lo fa. Chi? A me non, lo non con me, però. A chi è? Perché i gruppi? I gruppi di solito è quello che... È quello che segue i gruppi, giusto? Quello che segue i gruppi musicali. Ma qua invece segue tutto quello che fa. No, non si può dire. Ma che cosa? Aspetta che gli metto... Ma io non le conosco. Un po' come su Aschi, no? Non ne ho io, grazie a Dio. Non su tutti siamo poi dipende dal contenuto della... Sei fascista. No, ma tutto quello che è comunque... Tu pubblichi questo profilo, questa persona ti mette un mi piace e si scatena. Può per te, perché vuol dire che comunque ti sei fatto gli amici. Ma molto perché lo facciamo con me. Sono abbastanza carine, insomma, però non... Chissà chi è. Quindi non penso che incontri mai altri gusti di questa gente. Qua. Ragazzi, al numero 19 è quello ossessionato con lo sport. Se a te non interessa non resta altro che bloccarlo, perché comunque è quello che si scatena con messaggi di carattere sportivo. Vedi, zio, tu non hai idea quando una qualunque partita, vedi, ogni due minuti un posto nuovo, gol, no, ma che cosa fai? Blocco. Lui. Ne abbiamo trovato uno. Perché? Quando ne uscirai? Mai. Ma anche Leandra quando ci sono le partite manda sempre... Ma lei... La... Ciao Leandra! Vabbè, ma partite di calcio è una cosa, no? Lui parla di spot, andate a fare questo, andate a correre, il bello stare in forma, tutte queste cose. Il calcio. Lo sport è in generale. Ok, la cancello subito, mi sta sulle scale. Anche lo sport, e quindi comunque quelli là che ogni gol della partita si esalta, ogni cosa, Infatti in quel periodo cancello completamente Facebook e mi distraggo. Al numero 18, quello popolare, ha milioni di amici, tutti lo commentano ogni status, anche quelli più inutili. Io aggiungerei che solitamente è un profilo femminile. No, io c'ho un fratello della chiesa che c'ha quasi 20.000 persone. Però... Ma... Sì, tutti attivi. E a tutti questi tutti commenti, italiani. Queste cose... Ma quindi tipo stiamo parlando di Sofì qua, vero? No, lei ha altri problemi attualmente. Più. Oh, no, Sofì, come sei carina! 10 minuti di prima posto. È vero, e Sofia ha avuto un record di richieste d'amicizia ultimamente, comunque la seguono molti, tra l'altro riceve anche messaggi privati, foto di altri gatti in privato, vedo che ha una vita virtuale più attiva della mia. Numero 17, quello che ci casca sempre, rilancia tutte le bufale più incredibili del web, compresa quella di Facebook. Compresa quella di Facebook che ti spia, un grande classico. Lascia, Facebook chiude. Lascia il mouse sulla mia disegno, sul mio avatar, clicca la cosa. Perché Facebook presto chiuderà. Ed è tempo di MSN che dicono MSN presto chiuderà. Diventa a pagamento, è ancora peggio. Diventa a pagamento. È a pagamento. Mi manca MSN. Stanno chiudendo. Appunto, mi manca. È diventato out tutto. Ma comunque. Avevo un sacco di emoticon bello. Ci si aggiorna poi col tempo. al numero 16 quello che sta sui social ma non li sa usare e quindi non sa esattamente come postare o cosa postare. Su Twitter è un classico che mette una parola e 40 hashtag diversi che spesso non c'entrano niente. Ne conosco anch'io. Io non ci parlo veramente tutte, però non ci sono neanche. Non ci sono, però. Si sta parlando di Facebook. No, Facebook, vabbè, Facebook è facile, dai. Non per tutti. Io ne conosco una che scrive proprio. Non ha idea di cosa fare, no? Scrive i post e se li commenta da sola. Per dirti. La conosco. Che bello. Io ho una cugina che ha problemi di amore. E mi manda 15 milioni di informazioni al secondo. No, ma ti sei disiscritto da lei. Mi sono disiscritto da lei pur di non vederla. Guarda, davvero, ormai. Ho dovuto bloccare. Ora non lo perché fa più comunque. Pipì, che cavolo! Spengo, riaccendo 134 messaggi nuovi. Che sta succedendo? Click, 130 suoi, 4 degli altri. Non lo fa allora, più comunque. Questa però, secondo me, risulta nel numero 15, che è il depresso. Pensano che Facebook sia il telefono amico. E questa. Io non commento di guardo. Io non commento. È meglio. Ti è capitato questo No! Abbiamo il nervo scoperto. Oddio. Altarino. Che ragazzi. Vabbè, loro si devono confessare, si devono dire un qualcosa. Ma è bello che lo scrivono. Cioè, ci sono persone che lo scrivono. Mi è successa una cosa bruttissima. Cosa c'è? Non ne voglio parlare. Perché? Sulla biblioteca dove ci sono 6 milioni di persone che lo leggono. E non ne vuoi parlare. Ma quelli peggiori sono quelli che quando qualcun altro scrive ma cosa è successo rispondono chat. Lo voglio sapere anch'io, dimmelo. Scusate, moderatore di forum di giochi online. Sì, ma si sta parlando di Facebook. Sì, lo so, io sono moderatore di giochi online. Sul forum scrivono mi è successa una cosa terribile, ma non ne voglio parlare. E so, ma no, dai, dici perché è successo, cosa ti è potuto succedere? Sai, anche a me è capitata una cosa. Sotto, risponde lui là. Ah, sempre qui che vieni qua a parlare sul mio, sui miei post. Ma fatti un po' i fatti tuoi. Ma scusa, l'hai scritta in pubblico. Che cavolo vuoi? Ma a queste persone su Facebook, tu non mi devi scrivere. Perché? È pubblico? Cavolaccio, te lo scrivi tu in pubblico. Ti dovrò pure rispondere io. Ma quando scrivono pubblico. Queste cose, mi viene soltanto rispondere, ok. Basta, non dare più confidenza. E poi ci sono persone che dicono, vogliono che tu te ne preoccupi, o voglio che tu lo noti. Messaggio PM, sì, per... Okay. Messaggio PM per il moderatore. Digli a quella persona di non scrivere più sui miei post. Vabbè, non rispondere in altre situazioni. Numero 14, questa è molto secondo me diffusa, quello che si sente intellettualmente superiore, pubblica citazioni impegnate per far sapere quante ne sa. Basta cercarsele su internet. Qua, Big Quot! Qua io so di diversi, i regini in particolare hanno un po' questa cosa. Apertura, il mondo è come un pisello, bisogna saperlo fuori. Tuo fratello, Saverio. Ogni tanto. Saverio per scrivere tutte le cose intellettuali. Ah. Io non sono buono. Ma tutti, guarda, ma che basta cercare. Ma lui la sa, lui la sa queste cose intellettuali perché lui ha studiato. Basta cercare su Google, di questo modo, frasi di questo, frasi di quest'altro. No, ma è la maniera per dimostrare agli altri che comunque c'è. Che fare copia e incolla. Che c'è questo interesse per la cultura spicciola. Cioè, mi piace tantissimo quando ti mettono i quesiti, no? Cos'è quell'animale che cammina a quattro zampe quando è piccolo, poi diventa due e poi ne ha tre? Cioè, è lunga quanto la storia del mondo. Vai in internet, scrivi animale 3, 4, 2, vedi e ti esce fuori scritto l'uomo. Però, dico io, che indovinello è? È un sito romano. Lo io. Detto questo, al numero 13, anche siamo qui, i regini, con tutto rispetto, bisogna quello al numero 13, quello che ti fa venire il senso di colpa se non condividi i suoi post. Vero. E quelli che mettono tipo le cose sui bambini, tipo, i poveri, sui famigli. Metti mi piace per le cose. Condividi assolutamente la mia cosa. Ogni volta che tu ignori questo post, un gattino muore. Sì. Che potere a Facebook. Mi piace nutre un'azione intera. La condivisione salva animali. Facebook. Bravo Mark Zuckerberg. Chiama Zuckerberg. Zuckerberg. Va bene anche così. Si chiamava Tinder. Guarda un attimo dal cavetto della telecamera, ma andiamo avanti. Numero 12, l'amico condiscendente. Non pensa che i tuoi commenti a sproposito vorrebbero offenderti o irritarti, lui va avanti per la tua strada come un carro armato. Ed è un classico quando tu pubblichi una cosa un po' particolare, un po' profonda, e c'è quello sotto che ti risponde con la frase che non c'entra un piffero. Ti è capitato? No. Allora. A me sì. Devo scrivere una frase particolare. E quello sotto? Le rose sono verdi, il cielo è blu, la più bella sei tu. Sai che ho comprato anche una rosa? Avevo anch'io un libro di coso, di Final Fantasy. Lo vedi, che no. A tutti capita alla fine. Alla numero 11, un po' fissato, quello che ti sbatte in faccia la sua forma fisica perfetta. No. Onestamente, devo dire che lo faccio spesso perché... Fai la tua tartaruga. Tu vedi che Andrea fa con Photoshop. In verità. Mette... In verità. Mi faccio body engrassing. In verità, sinceramente, io una volta ho messo la foto della mia tartaruga. Al contrario. No. Ho messo la mia tartaruga mentre stava facendo una passeggiata nel giardino. Però nessuno mi ha detto niente. E lui, è giusto. Ma dipende dalla tartaruga, soprattutto appunto se il fisico è veramente prestante. Adesso devo comprare una tartaruga solo per fare questa addominali. Quindi se io pubblico una foto di iPad, è un fisico prestante. Certo. Va bene, andiamo avanti, perché al numero 10 c'è quello che ha veramente una forma fisica perfetta. E veramente pubblica mille foto per provartelo, cioè capisci? C'è proprio tutta l'intenzione, la cosa di farti un po' rodere. C'è poi anche quello lì che dice di essere ai tante bellissimo, invece si frega le foto di un altro che non conosce nessuno e gliele mette lì dicendo che è lui. E questo era il numero precedente. E che l'abbiamo trovato. Alla numero 9, quello che è la mia vita è migliore della tua e sente l'urgenza di fartelo sapere. Certo. Ragazzi, questo penso giusto, no? È normale. È standard. È proprio il coso principale di Facebook. Sai, io ho fatto questo, sai, io ho fatto quello. Oh, guardami! Il coso. Ok. L'obiettivo Facebook serve principalmente a questo. La numero 8, quello odiosamente fotogenico. E anche qui, allora, visto che è più o meno un complimento, posso dire chi è. Saverio Monorchio. Non importa la triangolazione, in che momento, comunque cosa tu faccia, se fai una foto di Saverio Monorchio esce benissimo per forza. Io invece ho un amico che è il contrario, cioè in qualsiasi modo si viene proprio male, va male da morire. Concordi? Sì. Non lo conosco. È quello che era venuto al live e aveva il testo del cane. Sì. Oh sì. Vabbè, non entriamo, non entriamo nei dettagli più. Sì, ho capito già. Va bene così, ragazzi, al numero 7. Non andiamo oltre. Le coppie con un profilo Facebook congiunto perché sono troppo innamorati per stare divisi. Sì, ma che palle. Terribile. Ma come fanno? A che serve davvero? Perché, cioè, no, seriamente, no, a che allora, serve? Aspetta, se sono due ragazzetti, magari persone che sono sposate e che magari usano Facebook per pubblicare le foto della bambina, eccetera, quello sì, lo posso anche capire. Ma sti ragazzetti... Non ormai Facebook... Ma non voglio dire... un giorno scopri che la moglie di Tizio va a letto con quell'altro e io devi dire come fai. Proprio questo fanno il profilo congiunto così. Ma intanto io immagino tutte, scene in cui tutte le soffiate arrivano a una fonte, a un punto unico dove comunque entrambi possono o cancellare prendere, o scoprire, prendere le distanze liberamente. Alla numero 6, la celebrità. Che può essere pure, esce con i VIP da... e deve fartelo sapere. Deve, come dire, sinceramente, mi vanterei anch'io. L'appunto, ma qui si sta parlando di una celebrità non vera o finta? Tipo, no, una celebrità, persona... una persona che comunque ha dei rapporti con queste persone importanti e quindi ti fa sapere che, no, no, perché ce n'era uno presunto invece. Che diceva di essere famoso, che aveva fatto libri sopra la Palestina, parlando bene del popolo di Israele, delle guerre, cercando di trovare la pace in Israele, e poi si è venuto a scoprire che questo, i libri suoi, il vero libro che aveva scritto, che diceva aver scritto lui, era stato pubblicato sì in 30-40 copie, non è che c'è, però le firme sopra il libro che diceva che era stato firmato ad esempio dal Presidente della Repubblica o dal Presidente del Consiglio addirittura, erano vere firme, ma era lui che andava lì e chiedeva la firma al Presidente come dedica sopra il suo libro. Dice, mi può firmare questo libro per piacere? Gli faceva la dedica e lui dice, guarda, ho presentato il mio libro al convegno di Tizio e Caio e me l'ha firmato pure il Presidente. Lo conoscevano perché era famoso, invece non era famoso di niente, non lo conosceva nessuno. Se tu lo cerchi su Google, e c'è solo i suoi siti che parlano di lui. Basta. Vabbè, questo è il borderline, un altro numero comunque. Alla numero 5, il giramondo è costantemente in vacanza e mentre tu sei in ufficio sfila davanti con decine di foto di posti più esotici. Mai capitato. Di questi tempi è molto raro, anzi se ce n'è qualcuno all'ascolto mi aggiunga. No, vedo dove posso andare col camper. Ho un ragazzo che gestisce la mia casetta Lerici, che ora è che giramondo, quindi sì, molto. Va giù al nord. Vabbè, ma perché lui c'ha un lavoro che gli dà rendita, quindi non è che... E quindi comunque se lo può permettere. La numero 4. Quelli che la mia vita sociale è migliore della tua e devono farti sapere assolutamente quanto si divertono. E quindi comunque al di là di VIP o non VIP, semplicemente quando esce a farsi la birretta a un euro in giro è... Ma anche quando va in discoteca. Yeah. Ma più che altro mi chiedo, ma se sei fuori, perché sei attento a Facebook? Cioè... Appunto, ma apposta sei l'amico che non vorresti avere, perché comunque se dovresti aver fatto una vita invece stai su Facebook. Sono fuori! Bravo, sei. Alla numero 3, sempre per il discorso che Facebook serve a questo, quello che io sono più ricco di te. E lo scrivo non appena hanno sognato che qualcuno gli rubava la Lamborghini. Quindi cioè, per informatica alla Lamborghini? Per informatica alla Lamborghini No, a me su Facebook no, però mi è arrivato in diretta. Mi fa un collega di lavoro, collega, vieni, noi eravamo a parlare di macchine. Sai, io ho questa qua, io ho quella là, dice sì, anche io ogni tanto ho la mia Ferrari, faccio il girettino, ma per farla un po' sgranchire. Come c'è la Ferrari? Prendo il mio stipendio e c'è la Ferrari. Non sai perché mio figlio, che c'ha il tabacchino, dichiara 1 miliardo di lire, allora quando c'erano le lire, all'anno, a fisco, lo dichiara proprio dichiarato, e mi ha comprato la Ferrari, perché giustamente mi deve aiutare. Io ho una storia interessante. Terribile. C'era questa ragazza, e praticamente io sto guardando la bacheca, quando vedo sto post di una ragazza inglese, non so dove uscire, che praticamente fa, sono così triste, sto quasi per piangere, ero uscita per comprare da mangiare e sono tornata con un cellulare nuovo e cibo spazzatura, adesso come faccio? Dovrò aspettare il mese prossimo per comprare la mia tavoletta grafica, perché faccio così? Ti ammazzo! È vero, sono... Cancella, ragazzi, amici. sono cioè, assolutamente i casi. Che cosa si è comprata? Cibo spazzatura. Il cellulare nuovo. No, riuscire a avere, prendere da mangiare. Questo feeling tra tecnologia è un po' lusso, cibo. Cioè, non facciamo nomi. 600 euro di cellulare. Può essere tutto alla vita. Alla numero 2. Quello che pubblica ogni foto dei suoi passi perché tutto quello che mangia è epico. Instagram qua c'è il... c'è la Virginia! No, questa ma a me epica. Pare che questa è epica, però pure io la faccio, ma tu non è, ti alzi, fai colazione, ti sei tutto quanto, vai a pranzo per mangiare, ma non mangi, no, perché prima c'è la foto, tac, e via. Questo è proprio... Però il suo dietologo è contento perché me lo controlla quello che mangia. Ragazza, ti hai sgarrato questo. Ragazzi, alla numero 1 rullo di tamburi. Quello che si scambia i messaggi d'amore sulla timeline è il peggiore, specialmente se tu sei single. No, vabbè, anche se non sei single è una palla, cioè è proprio terribile. Amore mio, ti amo, davvero anch'io ti amo. Sì, ma io ti amo di più. Ma come ti amo io non ti ama nessuno. Ma perché continuate a rompere le scatole? No, ragazzi, c'è un'evoluzione. E peggiori sono quelli che lo scrivono in italiano approssimativo, tipo... Cioè, io l'ho visto scrivere... Rullo di tamburi, l'ho visto scrivere su forum, vabbè, non era Facebook, su forum, un passo. Amore, ti amo, io anch'io, e poi come erano due fidanzati nella stessa stanza... Due computer diversi, uno da una parte e uno dall'altra, scrivevano tutte e due sullo stesso forum, tutte e due dicevano le stesse. A quel punto ho detto: figlioli, ditevelo tra di voi, siete lì. Un consiglio: trombe. Soprattutto, ma c'è una. Solitamente c'è un'escalation di eventi che va dalla foto assieme quando si parla. Spisse che li amo. Quando si passa dalla foto singola alla foto in coppia, già quella è una avvisaglia, e poi si procede con, che ne so, lo sfondo con l'abbraccio e via dicendo, e poi i messaggi e tutto un divenire. Ragazzi, commentate questa classifica a cena@bacco.it. Fateci capire di quale parte, di quale tipo di profilo utente di Facebook. Fateci sapere proprio quali profili Facebook voi odiate, quali comunque non sopportate e quali secondo voi sono... gravi, assolutamente. Cliccate qui per iscrivervi al canale. Yolanda Carrisi. scusate. Allora, cliccate qui per iscrivervi al canale, qui per vedere il video precedente. Scrivete un commentino qua sotto. Ma guarda dove lui mette il video. Tu dovrei mettere il link e tutto quello. Compi che lavora. E scrivete. Abbiamo trovato un sistema per il bacco. E ragazzi, questo è lo spazio della classifica. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Fabrizio Canale, il nostro ospite di questa sera, in Big Bad Karma, Kick My Teeth. Please. Ragazzi, era la cena dei regini, come ogni settimana raccogliamo le nostre cose, ce ne torniamo a casa, ringraziamo chi ha seguito questa puntata e invitiamo tutti a commentare questa puntata a cena@ilbac.it. Bacca, ma grazie, accettiamo, tutti. Ma era uno scherzo quello di prima, cioè non la l'out, no. Sono molto deluso è da anni che conosco l'out, non può chiudere in questo modo. Ragazzi, purtroppo veramente non so cosa sta succedendo, sento delle presenze come se ci fosse qualcosa di... Che cazzo è quel coso? Sono il fantasma di Richard Amadio. Ho preso il controllo della trasmissione. L'unico modo per contrastarmi è organizzare la puntata speciale di Halloween della cena dei regini, altrimenti l'House of Buck e il Buck stesso cadranno nell'oblio. Beh, puntata di Halloween si può fare, la cena dei regini speciale Halloween. Tanto io non ho bisogno neanche della maschera per fare paura. E allora, la cena dei regini speciale Halloween. Evviva! Ciao.